con Anna Maria Malato, presidente di Più Libri, Più Liberi ed editrice indipendente, per presentare Più Libri, Più Liberi, fiera nazionale della piccola e media editoria a Roma, centro congressi La Nuvola, dal 5 al 9 dicembre. Anna Maria, ben trovata. Presentiamo questa edizione? Allora, questa è intanto la 17ª edizione, anche se noi vogliamo dire che la seconda edizione del nuovo corso, quella che si tiene alla Nuvola, che lei ha citato, il meraviglioso centro congressi disegnato da Massimiliano Doriana Fuxas. Questo passaggio ha permesso alla nostra manifestazione di crescere in maniera esponenziale. L'anno scorso abbiamo avuto 102.000 visitatori e ancora ci aspettiamo una crescita quest'anno perché altrettanto è successo nel numero degli espositori presenti e nel programma che registra più di 650 incontri con 1.200 relatori. Di cosa si tratta? Si tratta della più grande vetrina nazionale, appunto della piccola e media editoria, che ricordiamolo vuol dire il 40% dell'editoria generale, cioè praticamente un libro su due appartiene alla piccola e media editoria. Il tema di quest'anno sarà per un nuovo umanesimo, una risposta agli egoismi del nostro tempo. Che cosa significa? Significa praticamente che osservando quello che succede nel mondo ogni giorno, le ondate migratorie, ovunque, non soltanto naturalmente le nostre, ma insomma ai confini del Messico, e poi le disparità sociali sempre più elevate ed economiche, ci sembra che la risposta comune sia quella di una chiusura, di un arroccamento. Vogliamo provare in questo a dare una risposta positiva, a rimettere al centro l'uomo, la sua dignità, i suoi valori, e declineremo questo tema con una serie infinita di incontri. Ho considerato che si tratta della 17ª edizione e come si sta sviluppando nel corso degli anni? Guardi, come le dicevo, c'è stata una crescita continua e costante anche del settore, nel senso che questa manifestazione in qualche modo ha svolto anche una funzione di incubatore rispetto alla piccola editoria. C'è un programma professionale che noi curiamo insieme a Diego Guidi e al gruppo Piccoli Editori, che ogni anno dà le risposte che più servono alla nostra categoria. Lei sa bene che la difficoltà maggiore rispetto appunto ad un settore così importante del mercato è quello della distribuzione, è quello della presenza in libreria. Quindi i nostri incontri sono volti anche a dare le risposte. E poi un altro dato che mi piace sottolineare è l'aumento che si vede moltissimo quest'anno della vocazione internazionale della piccola e media editoria. Ci sono tantissimi autori stranieri, autori anche molto importanti negli altri paesi che hanno venduto centinaia di migliaia di copie, che quest'anno saranno presenti nei cataloghi dei piccoli editori, vengono in Italia tramite i piccoli editori. Com'è lo stato di salute della piccola e media editoria? Ha registrato fortunatamente un più quest'anno, un più 0,5, quindi come dicevo siamo arrivati al 40%, l'anno scorso eravamo al 34%, e in un momento di stagnazione, perché purtroppo l'economia generale naturalmente si riflette anche sui libri, mentre gli ultimi anni erano fortunatamente degli anni di crescita per il libro, quest'anno c'è una stagnazione, ma all'interno di questa stagnazione il nostro settore è in crescita. Fermo restando che il problema di allargare il pubblico dei lettori d'Italia rimane un problema molto forte, e noi speriamo che manifestazioni come la nostra servano anche a questo. Sì. Il rapporto con la distribuzione e le piccole librerie? Allora, il nostro rapporto con i librai dipendenti è fondamentale perché è evidente che il piccolo editore di per sé, non pensiamo, insomma, nella piccola editoria vuol dire che ci sono anche editori di grande rilevanza, insomma, ci sono soltanto i grandi gruppi che non sono presenti al salone, ma fondamentalmente ci sono anche invece dei marchi di grande qualità ma molto molto piccoli che hanno più difficoltà a dialogare con le catene, quindi il dialogo con le librerie indipendenti è per noi fondamentale e i librai tra l'altro gestiranno all'interno del salone una libreria a tema, cioè le dicevo il tema di quest'anno è il nuovo umanesimo, ci sarà una libreria a tema con tutti i piccoli editori che hanno espresso nel loro catalogo questo tema all'interno della manifestazione. E il rapporto con i lettori nel corso dell'anno? Guardi, il rapporto con i lettori è un rapporto sicuramente molto fidelizzato rispetto al mio settore, perché appunto marchi e piccoli identificati hanno in qualche modo un dialogo continuo e costante, però credo che questo dialogo appunto nel corso di 17 anni si sia aperto in fiera. Quello che piace al nostro fruitore è prima di tutto che spesso trova l'editore allo stand, il che non succede in tutte le manifestazioni del libro. E questa rappresentazione del catalogo, questa è una cosa su cui il presidente del Centro per il Libro, Romano Pontroni, insiste spesso, cioè il catalogo è fondamentale, sappiamo che in libreria è più facile trovare le novità per motivi che naturalmente capiamo anche le logiche dei librai che, ricordiamolo, sono i nostri alleati, vivono una situazione difficile come la nostra, però per il fruitore vedere tutto il catalogo e quindi capire quello che c'è dietro il progetto editoriale è davvero un'esperienza molto importante e quindi un'altra cosa positiva della nostra manifestazione è che si vendono tanti libri. Sì. In chiusura, quanti sono gli editori presenti negli stand? 545, è 545. un dato veramente molto importante e purtroppo però ci sono ancora tanti editori in lista d'attesa. Noi abbiamo quasi raddoppiato il numero nel passaggio dal Palazzo dei Congressi alla Nuvola, ma stiamo studiando con l'Eur nuove soluzioni in maniera da poter accogliere ancora nuovi editori l'anno prossimo, calcolando che gli spazi, diciamo, a nostra disposizione al momento sono stati utilizzati tutti. E allora ricordiamo la 17ª edizione di Più Libri, Più Liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria a Roma, Centro Congressi La Nuvola, dal 5 al 9 dicembre. Un saluto e un ringraziamento alla presidente Anna Maria Malato. Grazie a voi. Un saluto, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ci vediamo alla Nuvola.